Italia in controluce. In studio Daniele Biacchessi per questa seconda edizione di Italia in controluce per quest'oggi 31 di maggio. Sabato è 2 giugno e come sentite dai nostri giornali radio, nella festa della Repubblica ci sono molte polemiche, non tanto sul significato, ma quanto soprattutto su quello che le istituzioni dovrebbero fare per rendere omaggio alle vittime del terremoto. Ma sul significato e sui valori espressi da questa ricorrenza sentiamo il reportage di Anna Marino e sentirete le testimonianze di Carlo Smuraglia, presidente dell'ANPI, Don Luigi Ciotti, presidente di Libera, e Giovanni Sartori, un appassionato costituzionalista. La Costituzione e la legalità resistono e diventano sempre più forti nelle coscienze delle persone, soprattutto in un tempo in cui le parole, gli scritti e la comunicazione sembrano invece destinate a contrarsi nelle modalità sintetiche e senza luogo e spazio dei social network e dei 140 caratteri di Twitter. Ora, come una volta, ricordare è importante. La festa della Repubblica Italiana viene celebrata il 2 giugno, a ricordo della nascita della Repubblica. Il 2 e 3 giugno si tenne infatti il referendum istituzionale del 1946, indetto a suffragio universale, con il quale gli italiani venivano chiamati alle urne per esprimersi su quale forma di governo, monarchia o repubblica, dare al paese in seguito alla caduta del fascismo. Dopo 85 anni di regno, con 12.718.641 voti contro 10.718.502, l'Italia diventava repubblica e i monarchi di Casa Savoia venivano esiliati. Così ricorda quei tempi Carlo Smuraglia, presidente dell'ANPI, Associazione Nazionale Partigiani. Questa Costituzione ha una nascita che è un evento secondo me straordinario, perché siamo appena alla fine di una guerra. Dopo 20 anni di dittatura c'è stata la resistenza, ci sono uomini che hanno anche contrapposizioni politiche, devono unirsi insieme e cercare di fare una carta costituzionale, non per risolvere l'immediato, ma che abbia, e su questo sono tutti concordi, un carattere duraturo, sia destinata a durare nel tempo, a essere la regola di vita di un paese che si affaccia ora alla democrazia, a quel momento, ma che deve diventare e deve restare un paese democratico. È un'impresa difficile perché ci sono residui di antiche opposizioni, perché ci sono posizioni diverse che si sono mantenute anche durante la resistenza, che ha unificato tutto nell'obiettivo finale della liberazione e del creare poi dopo uno Stato democratico, ma che ha mantenuto intatte alcune differenze di posizioni ideologiche, perché ognuno ha concorso alla resistenza col suo bagaglio personale, trovando però il modo di trovare il punto in comune con gli altri, fare in modo che ognuno riesca a mettere da parte un pochino della sua ideologia per trovare quali sono i punti comuni sui quali costruire un sistema democratico. Molti parlano di modifiche della Costituzione. Quale sarebbe il clima giusto, se c'è, oppure se non è necessario modificare una carta che è ancora valida? No, per fare delle modifiche alla Costituzione, prima di tutto bisogna stabilire se davvero ne ha bisogno. E in grandissima parte questa Costituzione non ne ha bisogno, perché i valori fondamentali che sono alla base sono tuttora validissimi e nessuno può metterli da parte. Hanno semplicemente bisogno di essere attuati alcuni di questi, e soprattutto attuati quei tanti impegni che nella Carta Costituzionale ci sono per i governi e per la Repubblica, per rendere effettivi i diritti, garantire le libertà, garantire cioè la effettiva attuazione dei principi fondamentali. Quindi in linea di principio tutto questo non dovrebbe essere toccato. Può essere aggiustata la parte, diciamo, organizzativa della Repubblica, se per alcuni aspetti abbiamo l'impressione che l'esperienza ci suggerisca, faccio un esempio, di differenziare il lavoro delle Camere, questo si può fare con raziocinio, con attenzione, perché ricordando sempre che parliamo di meccanismi estremamente delicati, di pesi e contrappesi, e quindi non si può toccare tutto così brutalmente, ma bisogna farlo con molta attenzione. La carta è la casa di tutti gli italiani e, come diceva Calamandrei, deve vivere nella coscienza dei cittadini ogni giorno. In questo quadro, grande importanza ha avuto il dibattito di quegli anni sulla prima parte della Costituzione, quella dei principi fondamentali. Secondo il politologo Giovanni Sartori, oltre ai valori condivisi, sono necessarie anche le riforme. Io ho sempre difeso questa Costituzione, non perché sia perfetta, non perché non ci siano cose da cambiare, ma perché ho un po' la paura delle nuove Costituzioni, perché ne hanno fatte tante, soprattutto in America Latina, e una è stata peggiore dell'altra, perché ormai le fanno i parlamenti, le vecchie Costituzioni le facevano i costituzionalisti. Poi i parlamenti le approvavano, voglio dire, non è che le facevano fuori dallo spirito del proprio tempo, ma insomma erano fatte da tecnici, perché le costituzioni sono strumenti tecnici importanti di esercizio e di controllo del potere. Quindi io sono contrario alle assemblee costituenti. Se si fa un'assemblea costituente oggi, ci saranno 10 partiti che hanno progetti di costituzione diversa, perché si devono diversificare, e poi ne uscirà un pasticcio mai visto, perché le costituzioni devono essere anche strutture coerenti. Quindi io sono contrario a rifare tutto, a avere una Costituzione nuova. Sono molto favorevole a alcune riforme necessarie. Ecco, secondo lei, quali sono queste riforme necessarie? Questa Costituzione nasce in un periodo dopo una terribile guerra e poi dopo il fascismo, quindi è una Costituzione che non dà poteri sufficienti, diciamola subito, non dà poteri sufficienti all'esecutivo, al governo. È una Costituzione eccessivamente garantistica, che diventerebbe poi, creerebbe un sistema parlamentaristico deteriore, se non fosse per il fatto che o la legge ha una legge elettorale oppure la disciplina di partito la controlla. Quindi il primo problema è rafforzare l'esecutivo. Le riforme, quasi tutti i costituzionalisti sono d'accordo, insomma, si tratta di introdurre il voto di sfiducia costruttivo tedesco, di consentire al capo del governo di sostituire i propri ministri, il che vuol dire in pratica che la fiducia in Parlamento la ottiene solo lui, e poi i ministri vengono da lui nominati, giurano di fronte al capo dello Stato, ma insomma deve avere il potere di cambiare i propri ministri. Tra i valori condivisi di oggi che danno corpo ai principi della Carta ci sono libertà e responsabilità, uguaglianza e legalità. Non solo parole, ma valori che conosce bene Don Luigi Ciotti, presidente di Libera, attivo nella lotta alla mafia e fondatore e ispiratore del gruppo Abele. La Costituzione arriva da una conquista di democrazia nel nostro paese, e la spina dorsale della Costituzione è proprio la responsabilità. Nella Costituzione noi, non dimentichiamo mai, troviamo le regole dell'essere cittadino. Io credo che oggi più che mai dobbiamo farlo diventare sempre più cultura e costume. Ecco, la Costituzione ci parla di democrazia, è un segno di grande democrazia, ma la democrazia si fonda su due grandi doni: uno è proprio la dignità umana e la giustizia, ma anche la democrazia non starà mai in piedi se non c'è una terza gamba che si chiama responsabilità. E quindi la spina dorsale della democrazia, della Costituzione, è la responsabilità, quella che noi chiediamo allo Stato, alle istituzioni, per quella che è la loro parte, ma che dobbiamo chiedere anche noi cittadini di fare la nostra parte. Allora democrazia e partecipazione sono due modi per dire cittadinanza, e cittadinanza vuol dire ancora una volta corresponsabilità. Quindi dietro la Costituzione ci sono dei valori umani e non parole, ma parole che si riempono proprio in questo momento in cui, come dire, si deve opporre la legalità e la legge a spinte negative. Esatto, io devo dire, tradotto in italiano così molto chiaro, che la responsabilità individuale è la premessa della legalità, e quindi noi non possiamo essere cittadini a intermittenza, dobbiamo sentire che il cambiamento bisogna anche di ciascuno di noi. Dobbiamo difendere la nostra Costituzione nella parte dei principi fondamentali, c'è una parte che deve leggere anche i cambiamenti e le trasformazioni e che può essere adeguata all'oggi, ma nei suoi principi quella Costituzione è frutto di una lotta contro la dittatura, è una resistenza, ha quei percorsi per la liberazione del nostro paese. Secondo lei il 2 giugno ha ancora molto valore e soprattutto lei che tasta il polso della gente, come viene sentita la Costituzione? A me fa estremamente piacere che il Presidente della Repubblica ha scelto che nel rinfresco al Quirinale il 2 giugno ci siano i prodotti di Libera, i prodotti biologici che giungono dalle terre confiscate della mafia, dove Libera ha aperto delle cooperative di lavoro di giovani in Italia su quei beni confiscati i grandi boss in base alla legge Rognoni da Torre, e poi la legge per cui Libera ha raccolto 1 milione di firme nel 96 confisca uso sociale di questi beni, e quindi le mozzarelle della legalità da Castel Volturno, gli ottimi vini dalle cooperative della terra di Sicilia, della Puglia, i prodotti dalla Calabria, i paccheri sempre dalla Campania, quest'anno saranno i prodotti che il Presidente ha voluto nel grande rinfresco del Quirinale per la festa della Repubblica. Italia in controluce, torniamo domani alle 6:30 su Radio 24 con Scuola in controluce di Piera Ceci.